sera in casa era col sole e l'ultima sua notte di libertà domani prende moglie di già la principessa Fedora Romazzos quella vedova affretta ricca passabilmente 14 milioni salute era tempo il coniugato scarico le donnine le carte le bottiglie i cavalli niente si stava fresi si stava fresi che non si alzavi al padrone alla sposa alla dote a lui silenzio ricapitato no La principessa su sveglia di padrone. Thank you. Federico! Quella donna chi è? Fedora Ramazzotti! La principessa! Sì! Dottore! Una disgrazia! Un assassino! Il conte! O bella! O bella! O bella! O bella! Alla baciata di Francia la ringrazio porta la fissa e subito un prete Slitta! Parla! Parla! Parla! E mi disse, andiamo al tiro. Andammo, attesi un quarto d'ora. Subitamente nel gran silenzio sono e spari. Ascolto. Nulla. Più nulla, tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse innato spinto cancello, corre a sindacco, tra bizzarro non c'è più. E poi, quel buon correndo, aveva lasciato sulla neve stille di sangue. Come che io prego il mio volte, salvo il mio cuore.

a quell'uomo vedesti il suo nome. Non lamento. Vicino provo, sforzati, cerca. Cerca. Cerca. Cerca. Sciocco, mi soffio il mio libro, forse. Il giorno di Natale, allora sola, sola, loco con colonna. Seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'ho preso. Signora. La rivedo. Dove? Porco. Uccidito! Di Russia ed ecco la gente. Oh, ed ecco l'ideale. belle. Sì, lo uccisi.

che sono il comandante glaciale, o fior dei fiori, o fior diretta mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Son disceso all'albergo d'Inghilterra. Vado a parlar di voi, salvo il biciclo. Diego, un cervo, bravo. Chopin, il poeta del pianoforte. eccetera. Sono spiegati gli amanti. Non sarebbe un agente segreto. Una spia. Dall'imperial governo al vostro fianco messa. Per farvi chiacchierò. Fatevi cor contessa, quaggiù tutto finisce e tutto ricomincia. Non è la prima volta e l'ultima sarà. L'amore Eugène di Posso se ne viene per andarsene. So un rapimento. Come? In bicicletta. Bravo, mi devo leggerò. Corro vestirmi. Testolina sventata. Principessa, non son venuto qui per lei. Per me. L'amate molto. Sono pronta, che mi servo. deliziosa. Grazie, mi sfido a raggiungermi. Siete così leggera. E per noi che non mi chiedi vantaggio. E la costa. Conoscerò la mia nemica, il

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫契利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 come? Se tu mentissi! Dimmi lui che ancora! Che mi do la certezza! Lui stesso! Vladimiro! Ecco la prova! Leggi!